Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo di Europa, ma non solo, perché domani inizieranno le votazioni in Olanda. C'è poco fa, stavo leggendo durante la sigla i flash battuti dal Fondo Monetario Internazionale sui paesi che aderiscono al G20. In questi istanti il Fondo Monetario Internazionale recita, lo leggo assieme a voi: la crescita dell'economia mondiale è prevista accelerare nel breve termine, restano rischi e incertezze al ribasso. Questo è il documento che poi verrà analizzato dal vertice dei G20 il prossimo 17-18 marzo. Ancora sui crediti deteriorati, quindi i non performing loans, dice il Fondo Monetario, occorre accelerare, riparare i bilanci delle banche è la precondizione per la crescita sostenuta dell'economia. E poi sempre in tema di economia, il direttore generale del Fondo Monetario Christine Lagarde dichiara: siamo incoraggiati dall'attività economica più forte del previsto nell'area euro, nel Regno Unito e in Giappone, quindi c'è una ripresa più forte dell'area euro. Poi sappiamo che è una ripresa, diciamo, che ha diverse caratteristiche a seconda che si parli di Italia o di Spagna, per esempio. E invece, aggiunge la Lagarde, l'economia globale sembra riprendersi da una convalescenza durata anni, abbiamo raggiunto un punto di svolta e ci stiamo muovendo verso una posizione migliore, ma sarebbe un errore assumere che questo si traduca automaticamente in un'ottima salute. Beh, non si preoccupi la Lagarde, nessuno di noi qua rischia di morire di eccesso di salute. Raramente come in questo momento le scelte politiche sono importanti per quello che verrà dopo, soprattutto quando ci sono ancora considerevoli rischi all'outlook, cioè sulle prospettive future. Allora, per quello che riguarda lo scenario del Fondo Monetario, dicevo, incoraggiato, si definisce Fondo Monetario, dalla ripresa nell'area euro, parla anche dei flussi dei migranti. A un certo momento il rapporto che le agenzie stanno facendo uscire in questo momento dice: il Fondo Monetario invita il G20 a rafforzare la cooperazione sui temi dei migranti. Progressi potrebbero includere una migliore cooperazione fra i paesi che ricevono i migranti e quelli di origine, facilitando i flussi di rimesse e tutelando i diritti del lavoro. Va bene, sì, ci arrivavamo anche noi. Interessante la prospettiva invece di un'economia in crescita, in rafforzamento, perlomeno nel breve. Noi ne parleremo invece in apertura per il fronte europeo, che vede che cosa sostanzialmente. Da un lato, elezioni marzo Olanda, cioè domani Olanda e ad aprile Francia. In un'Europa in cui si innesta anche la tensione con Istanbul sul fronte emanentemente politico, ma faccio notare che oggi c'è un nuovo attacco di Erdogan contro gli olandesi, dice sono marci, e il premier Rutte dice non rispondiamo, non scendiamo sul livello, sono commenti disgustosi. E anche la critica l'Unione Europea per l'appoggio all'AIA, una posizione miope che non ha nessun valore per la Turchia, ma deve farsi una ragione la Turchia che esista anche l'Europa. Questo lo dico, qualcuno mi ha scritto ieri: lei era a favore dell'ingresso della Turchia nell'Europa? No, si ricorda male, abbiamo sempre detto che pur capendo le motivazioni economiche tedesche in primis, ma non solo, c'era un problema culturale molto forte. E bisognava che la Turchia, cosa che l'Unione Europea, devo dire, ha sempre chiesto, aderisse a degli standard, diciamo così, minimi sui diritti civili, cosa che non solo non è avvenuta, ma dopo il tentato golpe è andata anche peggiorando. Quindi, insomma, lo dico a chi in realtà era molto a favore dell'ingresso così, tout court, senza condizioni della Turchia. Ma noi non parleremo tanto dei rapporti con la Turchia, per quanto... E tra l'altro il ministro dell'interno di Berlino, dopo le accuse di Erdogan di ieri, ha definito Erdogan: Germania e Olanda sono stati banditi che danneggiano l'Unione Europea. Adesso, ma non è accettabile da nessun... men che meno da Erdogan, che dovrebbe farsi qualche corso accelerato di democrazia e di tutela dei diritti minimi, stampa, opposizioni e quant'altro. Ma voglio dire... ci vuole poco a dar ragione al ministro dell'interno tedesco Thomas de Maizière, che ha detto, lo dico con chiarezza, c'è un chiaro limite alla mia tolleranza. Ad esempio, quando ministri stranieri mostrano sul territorio tedesco il saluto dei lupi grigi, o quando viene discreditato il nostro paese con i rispettosi paragoni con il nazismo, o quando si cerca di offenderci. Tra l'altro faccio notare che gli immigrati turchi sono molto presenti in Germania. Forse Angela Merkel, qualcuno mi scrive, che a suo tempo spinse per l'accordo con la Turchia i famosi 3 miliardi per gli immigrati, ci sta anche ripensando, e comunque complessivamente parleremo anche di questo. Ma il vero tema è che cosa capiterà in questo momento in Europa. Non voglio parlare di rischi, ma sicuramente di possibili tensioni. Ecco un flash d'agenzia, oggi è una giornatina. Allora, si è dimesso. Allora, non si è dimesso, ma comunque ha annunciato che le sue dimissioni il presidente di Alitalia, Luca Cordero di Montezemolo. Questo lo apprende l'ANSA, lascerà la presidenza della compagnia, resterà comunque nel consiglio di amministrazione di Alitalia. Ma torniamo al tema di apertura, e cioè, da un lato, vabbè, Scozia ieri ne abbiamo parlato, che vuole divorziare dall'Inghilterra, Londra che ha avviato le procedure per divorziare dall'Unione Europea, domani appunto le elezioni in Olanda, la temperatura dello scontro tra Turchia e Olanda, Unione Europea che continua a salire, e poi le elezioni presidenziali francesi. Di questo ci occuperemo subito. Per quello che riguarda i mercati, oggi devo dire sono negativi, di uno 0,80% Milano, di uno 0,60% Parigi, invariata Francoforte, Londra invariata, Dow Jones meno 0,30, euro a quota 1,06 sul dollaro. Tra i titoli Azimut più 0,60 come Brembo, invece sul fronte di chi perde segnalo Banco BPM meno 3%, UbiBanca meno 2,20 come Biper Banca, Snam meno 2, Unipolsai meno 1,90, Yux Entaporte meno 1,90, Intesa San Paolo meno 1,60 come Eni, Saipem meno 1,30 e Mediobanca meno 1,20. Gli altri temi di questa puntata riguarderanno un tema che ieri abbiamo soppresso per mancanza di spazio, ma ci interessa moltissimo, ossia la mega acquisizione fatta da Intel di una società israeliana che si chiama Mobileye. L'ha pagata 15 miliardi quasi e mezzo di dollari, quindi dando un valore alle azioni del 34% in più rispetto al valore di borsa. Perché cosa fa Mobileye? Beh, ha un software già applicato, un chip in realtà, che sta espandendo per produrre auto che si guidano da sole. È la più grande acquisizione nel settore high tech mai realizzata in Israele, che è un paese che ha un settore dell'high tech avanzatissimo, il secondo più importante dopo gli Stati Uniti d'America. Poi magari un giorno riusciremo anche a approfondire come ha fatto Israele, con le sue dimensioni, a puntare moltissimo sull'high tech, perché è un caso di scuola. Però stavo dicendo, Intel e Mobileye sono già legate da un'intesa che include anche BMW, ma il fatto che uno metta 15 miliardi di dollari per un'acquisizione del genere vuol dire che tu stai scommettendo pesantemente sull'avvento dell'auto senza guidatore. Torneremo sul tema, anche perché non è la prima acquisizione in questo senso. Ancora, per quello che riguarda invece i temi di questa puntata, il rapporto agromafie, cioè il business delle mafie nell'agricoltura, il rapporto agromafie 2017 elaborato da Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità, sale a quasi 22 miliardi di euro il business, il valore d'affari complessivo delle agromafie, più 30% nell'ultimo anno. Stima, secondo gli osservatori e i curatori del rapporto, approssimativa per difetto, molte i proventi derivanti da operazioni condotte estero su estero, attraverso anche la creazione di fondi di investimento e il trasferimento formalmente legale di fondi attraverso i money transfer. Tra tutti i settori dell'agromafia, quello della ristorazione è il comparto più tradizionale, poi si arriva addirittura a franchising e catene di ristoranti, e poi che coinvolgerebbe oltre 5.000 locali con una presenza capillare tra Roma e Milano nelle grandi città. E poi il tema dello smistamento dei rifiuti, della raccolta, gestione dei trasporti, smistamento dei rifiuti. Ne parleremo più avanti, perché è un tema, insomma, che non vogliamo fare cadere. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo come sempre dall'estero, non si placano i guai per la Toshiba, abbiamo ricordato già che i guai della Toshiba nascevano nel settore nucleare, quindi non la Toshiba per come la conosciamo noi, diciamo, utenti e clienti normali, però insomma ha annunciato un nuovo posticipo della messa di un mese nella presentazione dei risultati e dei conti della società. È la seconda volta dopo il rinvio di metà febbraio e il Wall Street Journal dice che Toshiba starebbe valutando il ricorso alla bancarotta per la sua divisione nucleare americana Westinghouse Electric. Sempre restando in Asia, però spostandosi sulla Cina, vanno bene secondo i dati europei le vendite al dettaglio, ma vanno male secondo lo storico cinese, l'andamento storico cinese. Perché lo dico? Perché se uno legge la notizia, più 9,5% le vendite al dettaglio tra gennaio e febbraio, dice beh, la Cina sta crescendo a livelli che noi mai vedremo. Invece no, perché un 9,5% di crescita dei consumi in Cina è considerato poco, è meno dell'11% registrato a dicembre e del 10,5% atteso in media. La produzione industriale cinese non rallenta, non è così modesta, ma è appena sopra le attese, più 6,3% contro un 6,2% atteso. La produzione industriale in Europa, ci spostiamo in Europa, cresce. Ieri ne abbiamo parlato per quello che riguardava la produzione industriale italiana, capendo che c'era anche un effetto distorsivo dovuto alla stagionalità del mese rispetto a un anno prima e rispetto a dicembre. Insomma, l'ha spiegato a mio avviso molto bene ieri Luca Paolazzi, il direttore del Centro Studi Confindustria, tant'è che poi a febbraio la produzione industriale italiana è prevista crescere dell'1,3%, però insomma in tutta Europa cresce, media dello 0,9 nell'area euro, dello 0,5 nell'Unione Allargata, da noi cala. E in Germania l'inflazione è salita a febbraio, questo è il dato definitivo, al 2,2%. Perché è importante? Perché sappiamo che in questo momento Mario Draghi continua a tenere botta sul quantitative easing, sui tassi ai minimi storici a zero, perché non è soddisfatto e ha, diciamo, come grande elemento di forza il fatto che l'inflazione non sia a livello considerato ottimale dalla BCE, cioè intorno al 2%. Il punto è che però molti paesi ci stanno arrivando, o nel caso della Germania ci sono già arrivati al 2%, quindi questa tendenza, se continuerà, renderà sempre più difficile per Draghi mantenere la linea teniamo i tassi a zero perché manca l'inflazione, con la conseguenza che però quando dovessero ripartire i tassi europei, chi, diciamo, ne subirà le conseguenze saremo noi, per la nostra inflazione col cavolo che si avvicina al 2,2 e soprattutto la risalita che abbiamo visto è tutta dovuta all'inflazione esterna, cioè beni energetici e suoi derivati, mezzi di trasporto, non certo a un aumento dei consumi come abbiamo spiegato molte volte, e quindi a un'inflazione buona, positiva, perché segnala una ripresa dei consumi interni. Oh, veniamo alla notizia che è a cavallo chiaramente tra cultura, società ed economia, perché oggi la Corte di Giustizia Europea ha definito legittimo vietare il velo al lavoro. Il divieto di indossare un velo islamico si deriva da una norma interna di un'impresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico, religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta fondata sulla religione o sulle convinzioni personali. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, oggi a firma del vice direttore Alessandro Praterotti. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che le aziende private possono vietare alle loro dipendenti di indossare indumenti che siano segni religiosi, come ad esempio il velo islamico o l'hijab, quel famoso velo che copre il viso. La Corte doveva pronunciarsi su due diversi ricorsi, uno belga e uno francese, che riguardavano due donne musulmane. Entrambe ritenevano di essere state discriminate perché i rispettivi datori di lavoro avevano vietato loro di portare il velo. La Corte ha però stabilito che quel divieto, in un un particolare contesto è consentito. Nelle due sentenze la Corte ha stabilito un quadro preciso entro il quale questo tipo di divieto può essere attuato senza pratiche discriminatorie. È necessario che il divieto di indossare il velo islamico derivi da una norma interna di un'impresa privata che obblighi a non indossare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro. Questa regola interna non deve avere a che fare né con una determinata confessione religiosa né con una persona in particolare, ma con una più generale politica di neutralità dell'azienda. La sentenza cade in un momento molto particolare per la politica europea e soprattutto per i rapporti tra Stati membri sulle politiche migratorie, sul terrorismo e sulla gestione dell'emergenza clandestini. Tra 48 ore si vota infatti in Olanda, dove la tensione su questi temi è stata il cavallo di battaglia del Partito per la Libertà, il partito populista di Geert Wilders, e anche in Francia, dove a maggio si deciderà chi dovrà guidare la Francia e soprattutto si vedrà se la Le Pen è in grado di scassare l'Europa come ha promesso. Comunque sia, una cosa è certa: così come è vietato il crocifisso, il presepe o altri segni che possono creare disagio nei non credenti, finalmente l'Europa si è reso conto che le regole devono essere uguali per tutti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, andiamo avanti ancora con due notizie. Sì, qualcuno mi fa notare che ho la voce rauca, sì, ho un po' di raffreddore. Avrò somatizzato, cosa vi devo dire? Allora, andiamo avanti. Per quello che riguarda invece l'Italia, come già i nostri GR24 vi hanno ricordato, è stato fissato per il domenica 28 maggio, anzi, sono stati fissati per domenica 28 maggio i due referendum. Da un lato quello sui voucher, abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio, e dall'altro quello in tema di appalti, abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti. Confermato, chi me lo chiede, anche lo sciopero dei taxi il prossimo 23 marzo, mentre a chi mi chiede di noi, cioè del Sole 24 Ore, confermo che oggi l'assemblea dei giornalisti del quotidiano ha fatto rientrare lo sciopero dopo le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione di ieri, e il voto è stato a larghissima maggioranza, però domani è prevista un'agitazione della RSU, dell'unità sindacale di base, quindi dei lavoratori non giornalisti, e quindi da questo punto di vista è molto probabile che il giornale non esca venerdì, e vedremo cosa capiterà alla radio domani. Perché coinvolge anche i nostri assistenti di programmi, tecnici di regia e, diciamo, personale non giornalistico anche della radio. Però per quello che riguarda il quotidiano, domani è regolarmente in edicola. Andiamo avanti con invece, dicevo, ancora due notizie. Una riguarda l'ABI: a febbraio nuovi minimi storici nei tassi dei prestiti, in calo al 2,85%, lo segnala l'ABI. Per le imprese la media dell'1,45%, sui mutui c'è un leggero rialzo al 2,13%. Calano le sofferenze nette a gennaio, quindi crediti concessi che non ritornano più indietro, calano a 77 miliardi di euro. E invece poi una buona notizia arriva dal mondo della meccanica italiana, che è una delle assi portanti della produzione industriale italiana e del nostro export, perché la produzione dell'industria metalmeccanica nel quarto trimestre ha segnato un progresso dello 0,3%, ancora lontano dai livelli pre-crisi, ma complessivamente nel 2016 i volumi produttivi della metalmeccanica italiana sono cresciuti del 2,4% rispetto all'anno precedente. Questi dati presentati oggi nel corso dell'indagine congiunturale e commentati al microfono dal nostro Vincenzo Miglietta, dal vicepresidente Federmeccanica Alberto Dal Poz. Sono dei dati in assoluto bianco nero, ma noi continuiamo ad avere un atteggiamento ottimista di fronte a questi numeri. Risulta assolutamente evidente di come alcuni mercati stiano comunque performando bene, automobile in primis. Ci sono altri settori che segnano ancora dei rallentamenti importanti, sui quali però, con l'attenzione che è stata rivolta anche da parte del governo con tutte le tematiche legate agli investimenti sostenuti dal piano Calenda, pensiamo di poter dare una soluzione importante. Per il 2017 cosa vi aspettate e soprattutto cosa chiedete all'esecutivo, che di fatto comunque è in chiusura di legislatura? Ci aspettiamo innanzitutto che continui in modo molto importante l'attenzione in generale alle tematiche legate all'industria manifatturiera. Riteniamo come industria metalmeccanica di essere uno dei pilastri portanti dell'economia nazionale, forse tra i più importanti dal punto di vista dell'occupazione, e abbiamo bisogno di un impegno ancora maggiore da parte del governo, oltre il già citato piano Calenda, per sostenere i nostri investimenti e la nostra ripresa in un mercato che, sebbene a più velocità, sta comunque andando avanti. Sotto l'aspetto della contrattazione del lavoro avete chiuso un'importante intesa, c'è qualcos'altro che si può fare? Innanzitutto la diffusione dei principi fondanti di questo accordo di fine anno, di questo rinnovamento contrattuale che abbiamo avviato grazie al lavoro importante di Federmeccanica e della controparte sindacale. Sarà necessario non solo applicare, ma sarà necessario crescere insieme, aumentare l'educazione, la formazione, se vogliamo anche la crescita culturale, prima di tutto per le nostre imprese, per i nostri imprenditori e poi per i nostri lavoratori, in quanto gli strumenti che saranno messi in campo sono veramente nuovi, sono importanti dal punto di vista della detassazione, sono strumenti che possono risolvere dei problemi reali, concreti dei nostri lavoratori e dare opportunità reali alle nostre imprese. Pour me a taste of something good. Allora adesso andiamo sul primo tema che riguarda l'Europa, elezioni olandesi, elezioni francesi e scontro fortissimo con la Turchia. Devo correggere. Allora, ogni commento va bene, per carità, ma quando qualcuno mi scrive se noi adottassimo la lira svalutandola si spiazzerebbero le merci tedesche e si reinizierebbe a crescere e conseguentemente svaluteremo anche il debito nazionale. No, guardi, ci sono due errori, poi uno lo può pensare come vuole. Il primo, se tu hai una valuta più debole il tuo debito aumenta, non si svaluta. Insomma, è chiaro, se devi trasformare in euro una valuta che vale magari la metà dell'euro, il tuo debito raddoppia, anche perché ricordo che il quasi metà del nostro debito è in mano a investitori stranieri ed è espresso in euro, quindi non te lo puoi trasformare in lira. Tutto il debito è espresso in euro, ma voglio dire la parte di 40% in mano a investitori stranieri, quello te lo devi ripagare. Quindi prima cosa, se lei va a svalutare il suo debito in termini reali aumenta come valore, non, se no lo faremo tutti, se no qualunque paese che ha un debito stampa la moneta nuova e svaluta il debito, capito? Ma in termini nominali e in termini reali poi ti aumenta. Secondo aspetto, qui invece più articolato, guardi che i record che ha ottenuto il nostro sistema di impresa nei confronti dell'export anche l'anno scorso dimostrano che il nostro problema non è poi con l'euro a 1,06 e 1,05 non è la valuta troppo forte, se no non avremmo avuto i dati da record che abbiamo avuto nell'export. Il nostro problema sono la mancanza di consumi interni, la domanda interna. Sull'export, le nostre imprese, non tutte, ci sono ancora molte imprese che devono farlo, ma il famoso 20% che già lo ha fatto, abbiamo fatto un nuovo record nella bilancia commerciale nel 2016, si potrà sicuramente aumentare, ma il problema vero è che non ripartono i consumi interni, cioè non riparte la domanda, non c'entra niente l'export, la domanda non riparte se io adotto una lira che vale metà dell'euro e tutti i beni importati li pago il doppio. Di che cosa stiamo parlando? A meno che lei non favoleggi l'autarchia mussoliniana in cui io mangio solo roba che produco in questo paese, poi vorrei capire qual è quella che, diciamo, non ha neanche una componente, mangio, compro solo cose non prodotte con neanche una componente all'estero. Oddio. Sì, uno rinomina il debito nella nuova lira e poi tutti quelli che hanno 1000 euro con tassi di interesse, tanto che ti schizzano, perché per evitare la fuga di capitali tu aumenti i tassi di interesse e quindi riparte l'inflazione. Però adesso non voglio fare la puntata su sta follia dell'abbandono unilaterale dell'Italia dell'euro, perché qua siamo veramente agli apprendisti stregoni, con una complicità forte anche della politica, che dovrebbe a mio avviso invece non seguire solo la pancia e basta. Comunque dai, meteo, pubblicità e poi andiamo sull'Europa. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Pour me a taste of something good. Minuti. Allora, dunque, no, adesso non vorrei farla sull'euro, veramente vorrei farla sull'Europa, però giustamente alcuni ascoltatori fanno notare che oltre a questo ci sarebbe da rinegoziare tutti i mutui espressi in euro, con grande gioia di chi si troverebbe in mutuo dal 3-4% al 10%, ammettendo che prendiamo una valuta, una lira che vale la metà dell'euro, perché i tassi di interesse schizzerebbero, così come l'inflazione. Ma poi, scusatemi, perfino il pane, il grano con cui facciamo la pasta, è al 70% di importazione. Se noi avessimo una lira, quindi svalutata, pagheremmo di più anche quello, cioè l'inflazione ripartirebbe. Quello che a me fa girare le scatole è che quando politicamente, per acquisire un po' di consenso, si vaticina dell'ingresso della lira, non si dice che l'inflazione storicamente sempre ha distrutto salari e potere d'acquisto delle fasce più basse, perché come la Grecia dimostra, che non è mai uscita dall'euro ma c'era il rischio, i ricchi portano i soldi in Svizzera. Allora abbiate il coraggio di spiegare, prima di fare retorica, che per due pezzi esportate in più che non ci servono, perché ci stiamo spostando sulla fascia alta, non andiamo a concorrere con la Cina e la Romania sull'export, avremmo distruzione del potere d'acquisto, inflazione alle stelle, mutui negoziati, debito che schizza e prodotti che crescono, perché non c'è più un prodotto che facciamo solo in casa. Ho capito il chilometro zero, ma campaci col chilometro zero, su. Paese di retoriche. Allora, Adriana Ceretelli, la mitica editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ecco, non mi paga nessuna lobby per mantenere l'Italia nell'euro, lo dico a chi mi scrive. Grazie anche in collegamento da Londra ad Alberto Gallo, responsabile strategia e portfolio manager per Algebris. Buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, allora, Olanda. Domani, insomma, Mark Rutte contro l'islamofobo e anti-Unione Europea Geert Wilders. Incerti e altalenanti sondaggi. Ad aprile c'è la Francia, di mezzo c'è anche la Gran Bretagna, che deve ieri la Gran Bretagna ha attivato le procedure per l'uscita dell'Unione Europea. E poi, Francia con Macron, Fillon, che è in un mare di casini come scandali, e la Le Pen data in testa al primo turno per ora nei sondaggi, poi diverso il caso del ballottaggio. Nel frattempo uno scontro mai visto prima tra prima Turchia e Olanda, poi Turchia e Danimarca, poi Turchia e Germania, adesso Turchia e Unione Europea, insomma, con offese pesantissime da parte di Erdogan, che dà dei nazisti ai tedeschi, dei marci agli olandesi, dice che Germania e Olanda sono stati banditi che danneggiano l'Unione Europea. Allora, Adriana, qual è il rischio che stiamo correndo? Ma io direi che per certi versi paradossalmente dovremmo ringraziare Erdogan, perché ci sta dimostrando nei fatti la pericolosità di accogliere delle comunità che hanno delle visioni diciamo non compatibili con le nostre. Giusto. Circa la convivenza nella società civile, a livello che un presidente da Ankara può fare, disfare, insultare per prodomo sua, perché tutto ciò riguarda lui e il suo colpo di mano, diciamo, senza militari, per diventare l'uomo forte del paese aumentando i suoi poteri presidenziali. E quindi noi vediamo che cosa può succedere se si accolgono questi migranti senza una strategia ben chiara su come gestire la società del futuro, il rapporto tra migranti ed Europa, tra Islam ed Europa, il multiculturalismo, che finora è stato affrontato in una maniera molto, come dire, alla Carlona, si direbbe a Milano, cioè senza avere programmato, immaginato, eccetera. Quindi sotto questo aspetto io dico che paradossalmente lo dovremmo ringraziare. Sul piano sostanziale invece è una situazione inaccettabile e insostenibile, nel senso che non solo Erdogan, quando accusa di nazismo gli europei, forse dovrebbe guardarsi allo specchio, visto come si sta comportando in casa sua. Cioè beccare delle accuse accuse di nazismo da Erdogan, capito? Vabbè. Ecco, ma soprattutto non si limita agli insulti, che al limite uno dice vabbè, ma ricatta l'Europa con il famoso accordo che l'anno scorso, esattamente un anno fa, ha bloccato il flusso dei migranti, e questo vorrebbe dire poter destabilizzare l'esito delle elezioni tanto in Germania quanto in Francia. Questo trovo che è grave, ma è soprattutto una cosa sulla quale ci deve fare riflettere tutti collettivamente, nel senso che il buonismo non è, non deve essere di casa, ma deve esserci una lucida strategia. Io non sono contro i migranti, ma sono del parere che bisogna, quando si fa dell'accoglienza sacrosanta in tanti casi eccetera, però sapere dove si può andare a parare, perché quello che sta succedendo in queste ore è esattamente il esempio concreto di quello che può essere il nostro domani. Oggi in Europa ci sono 3,5 milioni di turchi, ma se andiamo avanti con i flussi migratori attuali avremo, oltre ai turchi, delle fortissime comunità sempre islamiche con le quali noi non siamo abituati a trattare. Sono d'accordissimo. E quindi dobbiamo capire che è una sfida grande per noi e per loro. Ma sì, Adriana, posso dire una cosa? Io sono d'accordissimo. Ricordavo prima che quando la Germania in primis era entusiasta qualche anno fa dell'allargamento verso la Turchia, noi ci permettiamo di far notare che c'era un problema culturale e religioso, cioè sarebbe stato il primo caso di un paese non cristiano, ma non lo dico perché voglio fare le crociate, ma nel primo caso di un paese non cristiano, e quindi giustamente una parte dei paesi europei dicevano anche alla Germania, che aveva un interesse per via della forza lavoro turca che c'è in Germania, attenzione, la Turchia deve prima sottoscrivere dei diritti civili minimi riconosciuti in Europa, cioè libertà di espressione, libertà religiosa, libertà di espressione politica, vale per i curdi, vale per le donne, vale per gli oppositori, laicità dello Stato, cosa che non ci pensava minimamente a fare. Così come, ma non voglio prenderla con la Germania, che adesso ne subisce pure le conseguenze, e fu anche la Merkel a insistere per i 3 miliardi della Turchia e per, diciamo, l'accoglienza, perché la Germania, avendo così 3 più 3, avendo così tanti diciamo immigrati turchi, avevano a convenire, e in quel caso facevo un ragionamento un po' più cinico del tuo, cioè non andava a guardare compatibilità culturali, diceva: io ho bisogno di forza lavoro, ho tassi demografici in calo, ben vengano gli immigrati qualificati. Ok, adesso mi dispiace dirlo, questo atteggiamento le si ritorce contro, perché si sta beccando della nazista, paese marcio e quant'altro, e il ministro agli interni dice: la nostra pazienza ha un limite. Forse hai ragione tu, sì, paradossalmente meglio che vedere che cos'è la Turchia di Erdogan e capire che non possiamo beccare, non solo come numero ma come provenienza culturale, flussi migratori così solo perché le fabbriche tedesche hanno bisogno di manodopera, senza pensare a quello che ne consegue dopo. Gallo, aspetti un secondo che ho il traffico. Dopodiché chi mi dice: ma come, lei adesso dice che la lira porterebbe inflazione invece l'euro, e poi diceva che c'è bisogno di inflazione. Ho detto che la lira porterebbe inflazione negativa, cioè quando svaluti imbarchi inflazione. L'inflazione di cui abbiamo bisogno, non certo a quei livelli ma intorno al 2-3%, dovrebbe essere quella buona, cioè quando un paese, l'economia riparte, in un paese tu consumi di più, ci sono tensioni sui prezzi, riparte quell'inflazione lì, non l'inflazione perché esco dall'euro e adotto la pizza del fango del Camerun. Traffico. Faircam Air and Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta Focus Economia. Allora, dunque, è questo quello che Salvini dice da... Guardate che non è che noi siamo contro Salvini, a parte che è ospite quasi tutte le settimane alla Zanzara. Siamo d'accordo, l'abbiamo sempre detto, che la Turchia andasse valutata attentamente ben prima della reazione, diciamo, fascista di Erdogan al tentato golpe. Comunque, Gallo, quanto rischiamo qui? Perché insomma ci mancava solo l'innesto della tensione turca per aumentare l'incertezza sull'esito elettorale in Olanda e in Francia. Io penso che in realtà l'Olanda sia più vicina a essere fuori pericolo rispetto alla Francia, perché in Olanda il partito di Geert Wilders è comunque un partito di minoranza che comunque non otterrebbe il controllo del Parlamento. Poi con questa mossa più dura nei confronti della Turchia, il governo ha anche un pochino mostrato che anche i partiti moderati possono essere duri. Quindi Geert Wilders ha perso consenso. Il problema è più grave in Francia, dove Le Pen ha una probabilità quasi sicura di arrivare al secondo round elettorale, sì, certo, ballottaggio. Però poi comunque si posiziona con circa un quarto, massimo un terzo dei voti, e quindi non, probabilmente non riesce a vincere il secondo round. Detto questo, c'è la probabilità di, piccola ma c'è, di uno scandalo come è successo a Fillon, che adesso è investigato, potrebbe succedere anche a Macron, che è il candidato principale riformista più giovane, che potrebbe essere una promessa positiva per la Francia, che anche come l'Italia ha bisogno di riforme. Quindi c'è comunque questo rischio di Le Pen, che poi vuol dire anche un break up potenziale secondo i mercati dell'Eurozona. In realtà poi Le Pen, anche entrando come presidente, non avrebbe la capacità immediata di fare un referendum per l'uscita dall'euro, e comunque i francesi vogliono per il 65% rimanere. Però sarebbe uno shock molto forte, e quindi noi lo, diciamo, è il rischio principale nei prossimi 2-3 mesi. Detto questo, sì, tutti guardando questo rischio si sono dimenticati che l'Europa sta crescendo. No, ma è vero, io ho aperto il programma con il rapporto del Fondo Monetario Internazionale, che dice l'area euro complessivamente data è in crescita più sostenuta delle attese, non mancano i pericoli, ma la crescita c'è. Poi in Italia ce n'è poca, ma questo è l'Italia. Prego, Gallo. Esatto, quindi soprattutto gli investitori anglosassoni, americani o britannici si sono dimenticati, guardando la situazione elettorale che è molto complessa, poi non guardano i fondamentali, la crescita. L'Europa addirittura ha superato l'America come sorprese nei dati macroeconomici rispetto alle aspettative. Abbiamo inflazione sopra il 2% in Germania, in Olanda, in Spagna, in Irlanda, quindi è vero che c'è una crescita un po' a due velocità, l'Italia, il Portogallo e la Francia sono indietro, però nella gran parte, nell'insieme, l'Europa sta facendo molto bene, e abbiamo per la prima volta le banche che iniziano a prestare. Di nuovo lì in Italia la situazione, siamo più indietro, ci sono state meno riforme, c'è un governo che è un po' un governo di pausa, però comunque c'è un contesto macroeconomico positivo. Se Le Pen non dovesse vincere, tutti questi investitori si troveranno poi non abbastanza esposti all'Europa. Sono tutti lunghi America, hanno tutti comprato le idee di Trump, della spesa pubblica, e al contrario, secondo noi, invece proprio l'America potrebbe un pochino sorprendere al ribasso, perché forse implementare tutti i piani dell'amministrazione Trump diventa più difficile, mentre invece le aspettative per l'Europa sono molto basse. Quindi lei dice attenzione, perché c'è una, come dite voi investitori, un sottopeso sull'Europa per via delle incertezze politiche, Olanda e Francia in primis, che non tiene conto del fatto che i dati economici complessivamente dati, appunto non solo sull'Italia, sono in miglioramento e rischiano di essere corti, come si dice in gergo, nel posizionarsi in Europa. Due risposte al volo prima di chiudere con Adriana Ceretelli sull'inflazione. L'inflazione buona è quella che si crea aumentando il potere d'acquisto e con tensioni sui prezzi. L'inflazione cattiva è quella che ti arriva da fuori, compreso l'aumento dell'energia o la svalutazione della moneta che ti fa pagare tutto di più, compresa l'energia. Questo dico, ok? L'inflazione è buona quando è conseguenza di un aumento del potere d'acquisto e un aumento dei consumi. Invece, per quello che chi ci dice razzisti non ha capito il ragionamento in primis di Adriana Ceretelli, però Adriana, poi so che diranno che io ce l'ho con la Merkel, però possiamo dire che, visto che manca un mese e mezzo, che è stato fallimentare, cioè ci metto assieme la gestione economica dell'area euro con l'austerity alla Grecia, agli altri paesi, quello che è successo, la gestione di politica estera sui flussi migratori con i 3 miliardi della Turchia, l'apertura della Turchia. Beh, insomma, non è che proprio Angela Merkel ne abbia azzeccate molte, no? Cioè sì e no, nel senso che sicuramente lei ha avuto il vantaggio, ma non solo lei, tutto il nord Europa, con l'accordo con la Turchia, in sostanza i flussi migratori da oltre 1 milione di persone in un anno accolte l'anno scorso sono crollate a delle cifre visibili oramai, quindi è assolutamente nell'interesse della Germania come del nord Europa. Sulla questione della Grecia, naturalmente il problema, sulla questione dell'euro oltre che della Grecia, il problema greco è un problema cronico, perché sicuramente i tedeschi, per ragioni sia culturali che oggi elettorali, non intendono ristrutturare il famoso debito della Grecia, che è insostenibile, lo sanno tutti e il Fondo Monetario lo ripete, però fino a che le elezioni non si saranno compiute, la Grecia dovrà ballare. Però da qui a dire che tutto quello che hanno fatto sull'euro è sbagliato, io non lo direi, perché sicuramente i paesi che per esempio hanno fatto riforme, hanno preso aiuti, ma diciamo hanno riformato, oggi stanno bene, nel senso che l'Irlanda va di nuovo molto forte, la Francia pure, la Spagna pure. Sì. La Spagna pure, il Portogallo va molto meglio del previsto. Diciamo che nel quadro generale, purtroppo, è solo l'Italia che va molto meno bene degli altri. Quindi, insomma, direi che è piuttosto un quadro in chiaroscuro, ecco, piuttosto che dire che è tutto negativo quello che hanno fatto. Allora, nel ringraziare Adriana Ceretelli, chiedo ad Alberto Gallo di restare con noi dopo il GR24, perché qualcuno mi dice: ma come, avete parlato in maniera preoccupata? No, si stava dicendo che è ovvio che se vincono Macron o Fillon o comunque vince Mark Rutte, la situazione cambia di poco. Invece cambierebbe molto di più, sarebbe più incerta se vincessero Le Pen e Geert Wilders. Questo è un dato di fatto, non è una valutazione politica. Vorrei capire dopo come potrebbe cambiare in caso di vittoria di Geert Wilders in Olanda e della Le Pen anche al secondo turno in Francia. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. 600 milioni di euro di finanziamenti, 380 tra i migliori ricercatori italiani, 7000 eccellenze europee, tra cui 6 premi Nobel. Sono alcuni dei numeri di IRC, i fondi messi a disposizione dal Consiglio Europeo della Ricerca. Un progetto che compie 10 anni, traguardo che l'altra Europa festeggia all'Università di Padova con una puntata live. Sono Federico Taddia e vi aspetto sabato 18 marzo alle 12 presso l'Aula Nievo di Palazzo Bo a Padova per conoscere i campioni della scienza in Italia e scoprire insieme l'Europa delle opportunità. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Ascolto Gianluca perché sei solo chiacchiere distintive. Perché non lo si può vedere. Perché è uno specchio deformante. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ascolto Gianluca perché mutano le case, mutano le cose, mutano le mele d'arenetta deliziose, muta questa vita, ma ancora in cosa non si sa. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Das antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Alberto Gallo, per concludere il tema, insomma, poi domani racconteremo compatibilmente con lo sciopero indetto dalla RSU non giornalistica, della rappresentanza sindacale non giornalistica, commenteremo anche lo sviluppo e poi soprattutto venerdì il dato olandese. Per non dare l'impressione, io non sto da nessuna parte, però è chiaro che se dovesse vincere in Olanda Rutte e poi in Francia Macron o Fillon, avremmo uno spostamento all'interno dello scenario esistente, anche se Macron è stato molto netto nel dire che l'Europa va cambiata anche dall'interno, ma va cambiata. Se dovessero vincere Wilders in Olanda e la Le Pen al secondo turno, quale sarebbe lo scenario dal punto di vista degli investimenti? Sì, ecco, effettivamente molti investitori oggi pensano alla complessità elettorale, quindi lasciano nello sfondo i dati macroeconomici che sono stati molto positivi. E quindi se dovesse vincere Macron, che comunque pro riforma, il governo Rutte in Olanda, e poi un'altra cosa molto importante, potrebbe vincere una coalizione tra Merkel e Schulz che è pro Europa, quindi Schäuble che è stato pro austerity diventerebbe il terzo incomodo in Germania, questo a fine anno. Quindi una combinazione di Macron con Merkel e Schulz in Germania, Macron in Francia, Rutte in Olanda, vuol dire che l'Europa diventa più pro riforma, si sbloccano quelle paralisi di austerità che facevano sempre arrivare a una soluzione alle 11:59, un minuto prima di mezzanotte, e gli investitori si trovano tutti corti, tutti con sottopeso all'Europa e sovrappeso in America. Io l'ho chiesto al caso contrario, però, cioè se dovessero vincere da un lato Wilders in Olanda e la Le Pen in Francia. Il caso contrario è che Wilders in realtà non raggiunge il controllo del Parlamento, rimane un partito di minoranza, quindi crea più rumore. Le Pen in Francia diventa un problema più serio perché può fare una campagna contro l'euro, anche se però per riuscire a ottenere un referendum ha bisogno dell'approvazione del Parlamento francese, quindi di una maggioranza di 2/3, e poi si scontra con una popolazione che rimane ancora pro-Europa. Quindi lo scenario più probabile se vince Le Pen è di fare creare delle misure che di facciata saranno populiste, magari anche ridenominare l'euro in una cosa che si chiama franco, però vale comunque un euro, quindi cambiare la faccia sulla moneta dell'euro francese con un altro disegno, però in realtà in sostanza si troverà con un Parlamento da un altro lato. Il problema di questi governi populisti è che fanno tanto fumo, poi però non arrostiscono niente a livello economico, e quindi, come anche il Regno Unito, i paesi si ritrovano poi con una crescita peggiore, con un'inflazione più alta, e la gente ne va poi a soffrire. Grazie, staremo a vedere e domani inizia appunto la prima tornata, quella olandese, in un anno, come abbiamo detto molte volte, delicatissimo, perché oltre a Olanda, Francia e Germania c'è anche l'attivazione dell'articolo 50 e quindi la Brexit. Grazie, e poi vedremo se ci sarà anche l'Italia, come mi scrive giustamente qualcuno, questo non l'abbiamo ancora onestamente capito. Grazie ad Alberto Gallo, che ricordo è responsabile strategia e portfolio manager di Algebris. Allora, il mercato oggi si è mosso sì sulle elezioni olandesi, ma anche sulle attese per il FOMC, che Federal Open Market Committee di domani, capire non solo se vi sarà l'atteso rialzo dei tassi, ma anche che cosa dirà la numero uno della Federal Reserve, Janet Yellen, sulle prospettive del rialzo dei tassi americani. Mercati nervosi oggi, meno 0,80 Milano, meno 0,50 Parigi, invariata invece Francoforte, Londra, meno 0,13%. La mossa della Fed penalizza un po' le banche italiane, su ben visto. Andrea Fontana, buonasera, Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera Sebastiano, sì, sicuramente le banche più che altro vengono da una fase di un più 16% negli ultimi tre settimane, quindi in attesa dei due appuntamenti che tu ricordavi di domani. È stata una giornata appunto di realizzi soprattutto sull'azionario, molto più tranquillo invece il mercato dei titoli di Stato. I settori più penalizzati sono stati appunto quello del credito e anche quello dell'energia, vista la forte correzione del petrolio, circa il 2%, i valori tornati ai prezzi di fine novembre dopo la relazione mensile dell'OPEC sui livelli di produzione. Infatti BPM meno 3, BPER meno 2,50, come UbiBank, Unipolsai meno 2,30, e invece fuori dal bancario Yux Net a Porté meno 2,20, come Snam, Telecom meno 1,60, 1,5 lo perde Unipol. E torniamo sui bancari, anche Mediobanca, Intesa, San Paolo, Eni, che domani presenta piano industriale meno 1,20%, e tu parlavi già del tema del petrolio e della correzione. E invece abbiamo visto deboli anche altri titoli, mi riferisco durante la giornata a Leonardo, poi un po' recuperato Leonardo Finmeccanica, che ha chiuso a un meno 0,77%. Fiat si era mossa bene, ma poi ha ritracciato. Andiamo ai migliori e peggiori, qui dobbiamo parlare di noi, nel senso che Gefran è il migliore più 11,56, Poi c'è il Sole 24 Ore che ha guadagnato il 10,46%, Andrea. Sì, tra l'altro con volumi molto consistenti, si parla circa del 4% del capitale trattato e indicativamente della terza maggior seduta di scambio del titolo del Sole 24 Ore da quando è scambiato, cioè da una decina, da 10 anni. Sostanzialmente, chiaramente il mercato inizia a cercare di posizionarsi sulle possibili schiarite della ristrutturazione. Ma magari poteva posizionare anche me, però è più interessante. Interessante che si posizioni lui sul titolo, prego. Sì, della ristrutturazione in corso. Oggi ha parlato su diversi temi l'amministratore delegato Franco Moscetti, indicando, rispettando diciamo la conferma dell'aumento di capitale nel mese di tra maggio e giugno, insomma dopo l'approvazione dell'assemblea di fine aprile, un aumento di capitale che ha detto l'amministratore delegato sarà più vicino ai 50 milioni piuttosto che ai 100 milioni, ha escluso la presenza di cordate di nuovi investitori interessati al gruppo, ha invece ribadito l'impegno di Confindustria a sottoscrivere pro quota il suo aumento e ha inoltre sottolineato che stanno proseguendo le trattative con le banche per la moratoria sul debito e sulla struttura di quello che sarà l'aumento di capitale. Improbabile che ci sarà invece, ha detto, una conversione del debito in azioni da parte degli istituti di credito. Allora, peggiori in assoluto: Vita, società editoriale meno 14, Equity meno 7,5, Smre meno 6,40, Gabetti meno 6,25%, tra chi è andato bene, sottolineo anche Mutui Online più 10,20 e Dada più 7,5%. Grazie intanto a Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore. E invece in tema di borsa, di banche, vorrei far ascoltare un passaggio di un'intervista che abbiamo realizzato con Gian Piero Maioli, che è il numero uno country manager in Italia per quello che riguarda il gruppo Cariparma. Perché? Perché l'Italia, per Crédit Agricole, che è il colosso francese bancario che controlla anche Cariparma, resta un mercato strategico. Hanno illustrato i piani di sviluppo fino al 2019, siamo il secondo mercato dopo quello domestico della Francia e prevedono una crescita organica e investimenti per 600 milioni di euro nel nostro paese per aumentare ancora di più le sinergie del gruppo. E allora ascoltiamo appunto Gian Piero Maioli, microfono della nostra Anna Marino. Soprattutto in termini di occupazione, perché come ho detto nel nostro piano al 2019 prevediamo almeno 500 assunzioni nette nel nostro piano di investimenti. È una cosa a cui tengo molto, perché insomma anche stamattina abbiamo sentito sempre il dibattito Francia-Italia, chi guadagna, chi perde, chi investe. E questo lo voglio ricordare sempre, noi assumiamo italiani, sono ragazzi italiani, cioè se di 500 che andiamo ad assumere penso che saranno 490 italiani almeno e gli altri saranno stranieri. Ambizione Italia perché gli italiani in questi anni di crisi hanno risparmiato molto più di altri. Ma resta il fatto che l'Italia è, credo, assieme al Giappone, il paese che risparmia di più, e anche questo noi lo abbiamo capito e rinforzato con questa grande acquisizione che è Pioneer, perché insomma tenete presente più di 3 miliardi e mezzo di investimenti, pur per un gruppo delle dimensioni Crédit Agricole non è una cifra indifferente. È un investimento di lunga durata, l'accordo con Unicredit è decennale, quindi una partnership che durerà. Siamo molto confidenti non solo in quello che gli italiani hanno fatto, ma quello che gli italiani sanno fare. Credo che la resistenza, il vero pilastro alla resistenza della crisi in Italia, a mio avviso, sono state le famiglie e il tasso di risparmio lo dimostra. Quali sono i settori in cui ci saranno questi aggiustamenti? E quando parliamo di aggiustamenti, noi pensiamo nel private banking e nel retail banking, valuteremo se ci saranno situazioni compatibili con il nostro piano industriale, le nostre linee strategiche. Quindi non vogliamo rischi, vogliamo che sia un discorso molto vicino alla banca universale che abbiamo presentato. Al momento non abbiamo dossier per poter dire domani faremo un investimento, ma insomma siamo un gruppo che guarda a lungo periodo nel paese. Allora adesso andiamo sul traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora, affrontiamo adesso un tema che vede chi parla, insomma, chiunque lavori in radio in un leggero conflitto di interessi, un conflitto di interessi assolutamente legittimo, lecito e trasparente. È ovvio che avendo noi un gran pubblico, soprattutto Radio 24, di ascoltatori in macchina, guardiamo con un certo interesse e preoccupazione la macchina che si guida da sola, perché ho capito benissimo dove si va a finire qua. Se la macchina te la guida a computer, tu ti metti a fare altro, navighi, lavori, e la radio, che in questo momento, tra virgolette, sei obbligato ad ascoltare, perché c'è anche chi guarda la TV, ma a suo rischio e pericolo, diciamo, la radio non ha più quell'elemento di ascolto obbligato perché stai guidando. Lo dico perché ogni volta che leggo di, diciamo, di passi in avanti che sta facendo l'industria dell'automobilistica sulle auto che si guidano da sole, così, qualche preoccupazione personale ce l'ho. Al di là della battuta, però, è incredibile quanto è stata pagata la società israeliana, la più grande operazione sull'high tech israeliano, che è già il secondo al mondo dopo quello americano, 15 miliardi e 300 milioni di dollari per comprare Mobileye. Li ha sborsati il colosso dei microchips Intel, il gigante USA nella tecnologia, valorizzando il titolo del 34%, cioè a 63,54 dollari per azione. Loro già lavoravano assieme alla BMW per iniziare a portare 40 auto senza guidatore per effettuare il test. Se qualcuno mi scrive, beh, almeno potrò guidare, potrò bere senza temere il palloncino. Sì, certo, ho capito. Non ho ben capito se sia consentito essere ubriachi o stonati perché guida il computer. Detto questo, Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor, buonasera. Buonasera Sebastiano. Una volta tanto ti tocca lavorare, nel senso che non mi commenti solo i dati delle matricolazioni, ma mi devi dire quanto è reale questa prospettiva, perché allora, è ovvio che Intel si è posizionata, però 15 miliardi e mezzo di dollari per posizionarsi è tanta roba. Che tempi ci sono? E mi sembra che l'accelerazione non sia solo lì. Sappiamo che Google con Waymo si sta muovendo, e poi ci sono altre, c'è l'accordo Google e Fiat con le prime 100 auto a guida autonoma, la Waymo è lo spin-off di Google per la guida autonoma, ha ricevuto 100 Chrysler Pacifica Hybrid minivan, i primi test quest'anno. Ma al di là dei test, insomma, che tempi voi ritenete? Ma io credo, Sebastiano, che tu possa stare relativamente tranquillo per quello che riguarda i tuoi ascolti. Perché prima di arrivare all'auto... Beh, in questo periodo non è poco, prego. Non è poco, no, ma neanche per i tuoi ospiti, perché poi ci tengono naturalmente ad essere invitati da te. Per avere un'auto in cui si possa mettersi tranquillamente a farsi un burraco, un pocherino, c'è ancora parecchio tempo. Perché è vero che c'è un progresso molto accelerato, è vero che ci stanno lavorando praticamente tutte le aziende dell'high tech e tutte le case automobilistiche, però la prospettiva di un'auto che, senza guidatore, in cui uno si possa sedere, possa leggere il giornale, possa dormire e arrivare a destinazione, non è proprio lì per arrivare. Bisognerà aspettare almeno la seconda metà degli anni 20. Senti, Gianprimo, il numero uno di Tesla però ha detto che secondo le sue previsioni nel 2030, adesso forse c'era molta provocazione nella frase, guidare sarà illegale. Il numero uno di Tesla può dire quello che vuole naturalmente, e abbiamo visto un sacco di dichiarazioni fatte anche da qualcuno che aveva solo una tecnologia, una piattaforma su internet, e parlava di essere protagonista dell'auto guida autonoma. Quindi abbiamo visto di tutto, ma naturalmente il numero uno di Tesla ha tutto il diritto di dire quello che vuole, anche perché di qui al 2030 poi sarà anche difficile che qualcuno degli attuali ascoltatori si ricordi di quello che ha detto. Ma la realtà è che c'è un grandissimo progresso, l'automobile che qualcuno voleva fosse un prodotto obsoleto soltanto qualche anno fa, sta vivendo una nuova primavera, ha un grande sviluppo in tutto il mondo, e l'auto con guida automatizzata, che è un primo passo verso la guida autonoma, completamente autonoma, verso la guida senza guidatore, già si comincia quali a vedere. Sono adesso tecnicamente, quali sono i principali ostacoli in questo momento, immagino di carattere tecnologico, cioè di software? Abbiamo visto quel caso famoso in cui quell'auto, quello di Tesla, perché non ha, se ben ricordo, ha confuso la schermata, un camion bianco per il cielo, no? Ora, per il cielo, certo. Capita anche agli umani, perché vedo ogni tanto gli incidenti che... per cui non sto dicendo che l'auto guidata dal software sarebbe necessariamente peggio di quella guidata da certi personaggi che vedo in giro, e che qualcuno legga il giornale mentre guida, già lo vedo, basta fare, diciamo, la Milano Bergamo Brescia al rientro, diciamo, dei furgoni, notiamo anche cose interessanti, cioè chi riesce a guidare col giornale in mano, però noi siamo per la lettura dei giornali a partire da Sole 24 Ore, non quando si guida. Ma quali sono gli ostacoli principali in questo momento? Gli ostacoli ce ne sono ancora di tecnologici, ma ci sono molti ostacoli di carattere normativo, perché occorre ridisegnare completamente tutta la normativa che riguarda la circolazione. Fra l'altro, negli Stati Uniti si è già cominciato, il governo federale ha avocato a sé tutta la normativa, con qualche protesta da parte dello Stato del Michigan e anche di quello della California, e ha emanato un primo provvedimento che indica 15 punti critici da normare. E questo è un primo aspetto. Ma poi naturalmente l'auto, per essere completamente autonoma, deve dialogare con le infrastrutture, perché molti mi scrivono, ma con le buche e i lavori in corso, appunto, improvvisati, perché uno adesso io capisco il computer, ma un computer, un software che riesca a dialogare con la nostra ANAS, con la gestione delle autostrade, con i lavori messi lì, cioè ancora non ce lo vedo, per non parlare della gestione delle strade di carattere statale e provinciale, no? Esattamente, hai posto proprio il dito sulla piaga, perché un'auto guida autonoma non potrà guidare soltanto in autostrada, ma dovrà andare anche sulla rete ordinaria, e quindi c'è un problema di adeguamento delle infrastrutture. Oddio, uno potrebbe anche immaginare che solo in alcuni tratti, per esempio l'autostrada, con un sistema computerizzato che tiene la distanza con la macchina che già esiste, tu possa accedere alla guida autonoma, alla guida, diciamo, automatica, no? Stanno arrivando dei pezzi di guida automatica, ma la sintesi, il prodotto finale, il prodotto che darà la possibilità di mettersi a leggere il giornale o ascoltare piacevolmente la radio in macchina è ancora lontana. Non credo che ci arriveremo prima della seconda metà degli anni 20. Ma stanno arrivando però moltissime... Beh, secondo la metà degli anni 20 non è che tu mi hai tranquillizzato così tanto. Vabbè, però... allora, a casa mia sono 7-8 anni. Vabbè, detto questo, io ti ringrazio. Poi, giustamente, qualcuno mi scrive, se vogliono veramente testarla devono prendere una città italiana, Roma, Napoli, Milano, durante la settimana della moda e vedere cosa succede. Quello sarebbe un ottimo test, in effetti. Se ce la fanno a passare questo test, voglio dire, allora lì possiamo dire che la vettura automatica è finalmente decollata. Grazie anche a Gianprimo Quagliano. Gli altri temi domani. Intanto a Sebastiano Berisoni auguro di una buona serata. Focus torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.